ecco tutto nuovo e scintillante, uscito appena appena dalla fabbrica, un treno vero sì, ma principiante. Una fatina bella che conosco, m'ha detto che i trenini capiscono il linguaggio dei bambini. Chissà se finalmente un treno intelligente le frasi che gli dico capirà e il desiderio mio soddisferà. Portami tu, oh bel trenino novellino lassù, sui monti dove è faticoso arrivare, ma donde si può vedere il mar. Giunti lassù, se tu sei bravo puoi salire di più, fin sulla cima e poi ancora più su, nel limpido blu, vicino al sol. Meraviglia mi risponde, ciuffe, ciuffe se vuoi, ciuffe, ciuffe io vo, che bellezza già si parte, finalmente mi divertirò. Ecco si va, il treno parte a folle velocità, ma poverino fa fatica a salire, gli manca il respiro, non ne può più. Forza bel trenino, sei sudato e sbuffi come un vecchio treno asmatico, già così presto ti sei ritirato. E dir che ti credevo un novellino, ma molto più sportivo, e invece sei un poco lavativo. Chissà se finalmente lo punto un po' sul vivo e il viaggio verso il ciel riprenderà. Sì, sì, comincia a muoversi, si va. Portami tu, oh bel trenino novellino lassù, sui monti dove è faticoso arrivare, ma donde si può vedere il mar. Bello è filare, alle stazioni non ti devi fermare, con gli uccellini devi tu gareggiare, e giunti lassù dovrai volare. Va nel cielo, fa uno sforzo, la rotaia non c'è, ma puoi fare da te. Poverino, fa un saltino, ma ricade scivolando giù. Fermati tu, oh bel trenino, no, non correre più. Oh che discesa, ho le vertigini già, che cosa accadrà? Chi ci fermerà? Chi ci aiuterà? Riesco a frenare con gran frastuon sull'orlo del mare, ma che emozione! Grazie trenino, ti chiedo pentita per